Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Può una borsa diventare un simbolo mondiale del lusso al punto da rendere immortale la donna che l'ha ispirata? Prezzo di partenza $4,000, che possono salire fino a superare i 100,000 in base al modello. Pelle morbidissima e preziose chiusure color oro. Lavorazione fatta interamente a mano che impiega dalle 18 alle 20 ore a esemplare. Le liste d'attesa sono infinite, tanto che perfino Samantha Jones, una delle quattro protagoniste modaiole di Sex and the City, se la vede portar via dal commesso di Hermès come fosse un sogno proibito. It's 4,000. I know. And there's a waiting list. I assumed. 5 years. For a bag? It's not a bag. It's a Birkin. La Birkin di Hermès non è una semplice borsa, è una vera leggenda che è stata dedicata a una donna molto speciale. D'altra parte, dare il nome a un modello dal gusto eterno non è proprio da tutti. Nei primi anni 30, Hermès crea una borsa piuttosto ampia, pensata per i partecipanti alle battute di caccia a cavallo, che poco tempo dopo, ridotta nelle dimensioni, diventa un prezioso e raffinato accessorio da passeggio. Quando nel 1956 Grace Kelly, attrice e neoregina di Monaco, la sceglie per posare sulla copertina di Life, l'immagine fa il giro del mondo. Grace continua a usarla addirittura per coprirsi il pancione quando aspetta Carolina e i paparazzi esagerano con l'invadenza e il modello viene battezzato ufficialmente Kelly. Quando Jackie Kennedy nel 1968 sposa in seconde nozze l'armatore greco Aristotele Sonassis, inizia il mito di Jackie O. Il suo accessorio preferito è una borsa a sacchetto, nata alla fine degli anni 50, che porta sempre come shopping bag insieme a una borsa più preziosa ed elegante, tutte e due allo stesso braccio. Tutti gli occhi sono puntati su di lei e il suo stile è detta legge. In tela, con le finiture e la tracolla in pelle e la chiusura a moschettone, il modello di Gucci diventa semplicemente la Jackie O. Per l'inaugurazione di una mostra al Grand Palais di Parigi nel 1995, la First Lady Bernadette Chirac chiede alla Maison Dior di disegnare una borsa speciale da regalare a Lady Diana. Il modello, piccolo e agile, rielabora tutti i tratti più riconoscibili e simbolici della casa francese, dal motivo a canage ai charme che riproducono il logo. La Lady Dior è di nuovo cult. La storia della Birkin, invece, comincia dalla donna mito che è stata in grado di rendere sexy quella piccola fessura tra gli incisivi che per le comuni mortali è un complesso al quale rimediare dal dentista. Attrice, cantante, icona di stile, il suo nome è Jane Birkin. Jane Birkin. 1984, volo Parigi-Londra. Nel sedersi in una delle comode poltrone di pelle della prima classe, a Jane, trafelata come al solito, cade la borsa, un modello di Vimini, e inevitabilmente il suo contenuto si sparge sul pavimento. Dopo un'imprecazione che renderebbe volgare qualsiasi donna, ma non lei, si abbassa e incomincia a raccogliere fazzoletti, bustine, trucchi e una moltitudine di appunti scritti in modo frettoloso. Lì vicino, già rilassato, con un libro in mano, c'è Jean-Louis Dumas, stilista di Hermès e futuro presidente della Maison, che distinto si alza e la aiuta. Una chiacchiera segue l'altra e Jane racconta a Dumas della sua difficoltà nel trovare una perfetta borsa da weekend, pratica e femminile al tempo stesso. Il creativo si mette all'opera e qualche settimana dopo le fa recapitare a casa la prima Birkin della storia. Ma il regista Andrew Litvak, che ha lavorato con l'attrice per Merci Docteur Ray, ha un'altra visione dell'aneddoto, molto più pungente. Io vi racconto quello che anche a me hanno raccontato. In pratica, già nel 1981, Jane era stata chiamata da Hermès che voleva fare il primo prototipo. Ovviamente ha visto la borsa finita e allora l'ha presa e stava per andarsene, ma l'hanno fatta tornare indietro. Lei ha capito, imbarazzatissima, che volevano che la pagasse. Dopo l'episodio, però, Jane è stata rimborsata e ora da Hermès ha il 10% di sconto su tutto. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, Pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Jane Birkin, che ha poi legato indissolubilmente il suo nome alla Francia, è in realtà nata e cresciuta in Inghilterra, in una complicata e divertente famiglia altoborghese del Nottinghamshire, che ha fatto fortuna grazie all'industria tessile del merletto. Per non perdere neanche un parente, sarebbe utile prendere appunti. La prozia Frida May Birkin, poi sposata William Dudley Ward, era l'amante del principe di Galles, che è diventato Edoardo VIII e duca di Windsor. Per parentela diretta o acquisita, Jane è collegata alle attrici Penelope Dudley, diva degli anni 40, e Rachel Ward, la Maggie Cleary della miniserie TV Uccelli di Rovo con Richard Chamberlain. Suo fratello Andrew, più grande di lei di qualche anno, diventerà sceneggiatore e padre di David e Ned Birkin, anche loro attori. Mentre la mamma eclettica e talentuosa è una donna di spettacolo che aveva lavorato molto nei musical di Noel Coward, papà, comandante della Royal Navy, noto eroe e spia della Seconda Guerra Mondiale, è il grande punto di riferimento della piccola Jane. Già da quando ero bambina mi rendevo conto di avere un papà straordinario. Lui ha fatto la resistenza francese e mi ha portato fin da subito a fare le manifestazioni contro la pena di morte in Inghilterra. Mi ha iniziato alla coscienza civile, a farmi carico dei problemi degli altri. Era un portavoce della lotta alle orrende condizioni delle carceri e io lo seguivo sempre. Andavo con lui nelle periferie di Londra a conoscere le persone che vivevano lì. È sempre stato molto affascinante stare con mio padre. Jane è una ragazzina sveglia, in gamba a scuola e nella vita, che non fa fatica a dire quello che pensa. Ogni tanto si fa prendere da momenti di malinconia, ma li scaccia in fretta, trovandosi qualcosa di divertente da fare. Una torta con gli ingredienti improvvisati, una passeggiata senza meta, un vecchio film romantico. Se papà David le trasmette il carattere battagliero e la voglia di combattere le ingiustizie, mamma Jude Campbell le passa la bellezza e una classe innata, oltre che l'amore per la recitazione e il canto. Ogni giorno davanti allo specchio prova i più famosi monologhi dei film. Entra nella parte, si lascia trasportare dalle parole. Senza dubbio, uno dei suoi personaggi preferiti è Rossello O'Hara di Via col Vento. Francamente me ne infischio. Non voglio perderlo, non voglio. Ci deve essere il modo di ricondurla a me. Oh, non posso pensarci ora, se no divento pazza. Ci penserò domani. Dopotutto, domani è un altro giorno. Moderna, pratica e civettuola allo stesso tempo. È da questa eroina cinematografica d'altri tempi che Jane impara a vivere con allegria e leggerezza, seguendo il celebre insegnamento «Domani è un altro giorno». Bisogna continuare a dirselo che qualsiasi cosa succeda dopo la notte sarà tutto diverso. Con un po' di fortuna, come diceva Rossella O'Hara, domani è un altro giorno. Amo questa frase. L'altra che non dimentico mai me la diceva sempre mia madre. Sorridi e gli altri sorrideranno con te. Piangi e piangerai da sola. È così vero. Londra, 1963. Jane Birkin ha solo 17 anni, un fisico da modella e il volto dall'espressività intensa quando arriva nella capitale con il sogno di fare teatro. È determinata e professionale, frequenta i corsi e si applica con attenzione, ma non può evitare di farsi travolgere dall'atmosfera pop e colorata di quella che il settimanale americano Time definisce la Swinging London. In una decade dominata dalla gioventù, Londra è in fiore. Brilla, è lì che succede tutto. L'antica eleganza e la nuova opulenza si sono fuse nel pop. Il cambio della guardia passa da Buckingham Palace a Lennon e McCartney. Ma Londra non si tiene tutto per sé. Il beat sta invadendo il mondo. Il centro di tutto è Carnaby Street, nella zona di Regent Street e Piccadilly. È qui, poco dopo l'arco con scritto il nome che segna l'entrata nella via, che John Steven apre la sua prima boutique, con una vetrina che non concede spazio alla sobrietà. Capi vistosi e colori vivaci conquistano i giovani e le star. Ma soprattutto, è sempre qui che Mary Quant inventa la minigonna. Pochi centimetri di meno che scoprono le gambe, liberano le ragazze e danno il via alla rivoluzione. Lo stilista Elio Fiorucci descrive la sensazione indimenticabile di essere protagonista di questo magico periodo. Quando chiunque sbarcasse a Londra in quel periodo, almeno io facevo così, ma sentivo tanti miei amici, tanta gente che veniva da tutto il mondo, lasciavi di corsa la valigia in albergo per scendere subito e correre a vedere cosa c'era di nuovo. Jane Birkin si sente perfettamente a suo agio nella stravaganza e non fa fatica a ridurre la stoffa che ha addosso. È frivola e libertina, vive alla giornata e non si preoccupa di quello che pensano gli altri. Passa le ore camminando, con una sigaretta tra le labbra, per i piccoli shop con le insegne dalle tinte pastello che vendono articoli a basso prezzo. Quando la colpisce qualcosa su un manichino, butta il mozzicone davanti all'entrata, lo pesta per spegnerlo con la punta della sua scarpa dal tacco quadrato ed entra in cerca di foulard dai motivi floreali. Non avevo niente, non ero ricca, non avevo successo, ma mi sembrava di avere il mondo in pugno. Ero spensierata e avevo tutto il futuro davanti, gli amici, le risate. E tutto questo mi bastava, non perdevo tempo a farmi troppe domande esistenziali. Lo snobismo non è più di moda, ripete sempre Mary Quant. E nei negozi le duchesse lottano gomito a gomito con le dattilografe per comprare gli stessi vestiti. Ogni tanto Jane si ferma a sorseggiare un tè sfogliando una rivista di moda. Qualche volta incontra un amico straniero, uno dei molti che sta facendo di Londra la città multietnica che è oggi. Di notte frequenta i club che fioriscono continuamente e stanno aperti fino alla mattina. Presto in città la conoscono tutti. Jane è diventata una grande animatrice della Swing in London. Jane Birkin è energica, alla moda, complessa e fascinosa come nessuna delle sue coetanee. È da poco maggiorenne quando, seguendo le orme della madre, esordisce in un musical del West End, vale a dire il quartiere londinese che è il corrispettivo europeo di Broadway. Siamo alla metà degli anni 60. Lei è arrivata nella capitale proprio per questo, per tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo, ma non si sente così sicura di sé da avere la presunzione di farcela. A convincerla di quanto sia brava, sia a cantare che a recitare, è John Barry, 13 anni più grande di Jane, inglese di York, charme del musicista irrisolto. Per conquistare la sua fiducia e il suo cuore le bastano un paio di appuntamenti. Era impossibile non innamorarsi di John, per il suo modo di muoversi, per il suo parlare. L'ho capito subito che era un uomo speciale. D'altra parte, se lei è bellissima, lui ha molto da raccontarle. Formazione da autodidatta, un passato da proiezionista in un cinema, un breve periodo di notorietà come leader dei John Barry Seven e poi l'approdo al grande schermo. Con il pop è stato uno dei primi a mettere la musica moderna nei film, dando prova della sua genialità a partire dalle colonne sonore dei film di James Bond. Jane ha 19 anni, sposa John. È lui che le presenta amici registi, produttori e attori. Finché un giorno, dopo che per un po' di mesi non succede niente, arriva una di quelle occasioni a cui proprio non si può dire di no. Il grande autore Michelangelo Antonioni, pronto a girare Blow Up, manifesto dell'atmosfera della Swing in London, vuole proprio lei, la sua perfetta icona. Sono corsa a dirlo a John e lui mi ha detto che se proprio dovevo spogliarmi, un film di Antonioni era la cosa giusta. Ma in cuor suo, secondo me, sperava che non lo facessi, perché vedeva che in casa, quando rimanevo nuda, spegnevo la luce. Blow Up racconta la storia di un fotografo di moda londinese che crede di scoprire, ingrandendo una foto scattata per puro caso, i segni di un delitto. Molti personaggi famosi del periodo appaiono nella pellicola. In una sequenza vicina alla fine, suonano The Yardbirds con Jimmy Page e Jeff Beck, che sfascia la sua chitarra. Michael Palin, del gruppo comico Monty Python, è presente e farà il pubblico nella stessa scena, mentre la giornalista Janet Street Porter balla fra le spogliarelliste. Jane Birkin, nel ruolo della ragazza bionda, si toglie i vestiti e le inibizioni e con il suo nudo frontale conquista il mondo. Right. That's good, that's good. Hold on. Come on, that's great, that's good, good. È il 1966 e Jane, corpo slanciato, lunghi capelli divisi perfettamente a metà da una riga decisa e frangia piena che cade sugli occhi, resta incinta della sua prima figlia, Kate. Un destino, quello di partorire figlie femmine affascinanti come la mamma, che sembra già segnato. Kate, fotografa, Charlotte, attrice di culto e cantante, e Lou, modella e attrice. Le ragazze Birkin sembrano avere una marcia in più perché riescono senza sforzo in tutto quello che fanno. Non sono mai riuscita a sapere se sono una buona madre o no. È una questione che mi pongo continuamente. Avere dei figli non fa di te una buona madre. Così come ci sono madri meravigliose che non hanno mai partorito. Spero che le mie figlie siano felici di avermi accanto. Avere una madre giovanissima, allegra e solare è molto bello per Kate, anche se ha solo un anno e non può certo rendersene conto. Papà non c'è praticamente mai, è sempre in giro per lavorare e promuovere film ed è molto più concentrato sulla sua carriera che sulla sua famiglia. Jane alla mattina porta la sua bambina a fare colazione fuori perché è nei bar che si incontra la gente. A volte la prende in braccio e mentre la fa giocare riesce a finire quel libro su cui si addormenta ormai sfinita da molte notti. La piccola è la gioia nella vita di Jane. Le piace metterle il cappottino blu che la fa sembrare una bambolina, avvolgerla nella sciarpa a righe che le ha fatto con le sue mani, portarla con sé in giro per i negozi. Per Kate, Jane mette da parte un mondo che grazie a Blow Up le si è spalancato davanti. Ma questa scelta di vita è davvero quello che vuole. Si addice a una come lei, il ruolo di moglie sempre sola e madre che se la deve cavare senza un compagno. Le basta la sua casa e un'esistenza tutto sommato ordinaria o ha bisogno del fuoco della passione, delle luci del set, dell'irruenza delle barricate? Mentre Jane Birkin si fa tutte queste domande, c'è un uomo, oltre la manica, che ha già tutte le risposte. Il suo nome è Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir et moi courant sur la rive je te crie de revenir mais lentement tu destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1968 e c'è una Jane Birkin, poco più che ventenne, che è diventata un'icona della swing in London. Foulard a fiori, minigonne a trapezio e stivali che si ispirano a quelli di Barbarella, l'eroina dei fumetti a cui Jane Fonda, diretta da Roger Vadim, presta il corpo. E questo il suo look quando viene scelta da Michelangelo Antonioni per interpretare in Blow Up un nudo frontale che la fa entrare nella storia del cinema. Suo marito, il compositore John Barry, non era molto d'accordo, ma lei come al solito ha fatto di testa sua. Adesso i due hanno la piccola Kate. John è sempre in America a lavorare alle sue colonne sonore e Jane non ha più voglia di stare ad aspettarlo come una brava mogliettina. Siamo nel periodo d'oro del femminismo, la Birkin ne è una fervida sostenitrice e non è più il tempo per fare rinunce. L'occasione del destino ancora una volta è un film, Slogan. Giusto il tempo di mettere l'essenziale per lei e la bambina in una sacca di cuoio dal sapore vissuto e si parte per Parigi. La capitale francese è nel pieno della rivoluzione studentesca e per le strade i manifestanti, collane hippie, megafoni ed eloquenti cartelli alla mano invocano il diritto all'aborto e condannano la pena di morte. Jane, con Kate alle sue spalle che si guarda intorno senza capire quello che le sta succedendo, è sempre in prima fila, come le ha insegnato suo padre. Mi sentivo di nuovo viva dopo i mesi di matrimonio con John. Lui era una brava persona, ma pensava a se stesso, alla sua carriera, non alla sua famiglia. Io invece ho sempre avuto bisogno di stimoli, di amore, di lottare per le cose in cui credo. Devo sentire la vita che pulsa. Trova tutto questo sul set di Slogan. Il protagonista maschile è già stato scelto, è il cantante mito Serge Gainsbourg. Capelli scompigliati, occhiaie evidenti, orecchie a sventola e una giton sempre in bocca. Non è bello, ma ha il fascino del maledetto, quell'aria da intellettuale irriverente che gli ha già fatto conquistare Brigitte Bardot. Jane non parla ancora una parola di francese. Lui, sempre nervoso, la tratta malissimo fin dal primo incontro. Poi una sera, dopo una giornata estenuante per via di una scena che sembrava non essere mai buona, vanno a ballare. Serge mi schiacciava i piedi, era goffo, e io mi sono innamorata. Ha sempre avuto una specie di paura nei confronti dei seni grossi e la prima volta che mi ha visto nuda mi ha detto che aveva sempre sognato una ragazza come me. Sopra come un ragazzo, sotto come una ragazza. Lucien Ginsburg non è un nome con cui si fa strada, continua a pensare il futuro chansonnier quando sogna di diventare famoso. I suoi genitori di origini ebraiche si erano spostati dalla Russia a Parigi ed è qui che lui è nato, nella tiepida primavera del 1928. Serge sceglie di chiamarsi così perché pensa che Lucien faccia troppo parrucchiere, è un adolescente timido che avverte un profondo bisogno di esprimersi, di sfogare la sua creatività in ogni disciplina artistica. Studia pittura e si cimenta con quadri surrealisti, per poi passare al figurativo. Ama il cinema e si appunta a suggestioni per storie che lui stesso vorrebbe scrivere. Impara da suo padre a suonare il pianoforte e lo accompagna nei cabaret di Pigalle. La vita l'ho imparata lì, tra le ballerine e i musicisti sbronzi, in quei locali dove il fumo impediva di vedere al di là del proprio naso e il barista era un confessore e uno psicologo. È qui che vedevo all'opera Boris Vian e sognavo di essere lui. Monsieur le président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Boris Vian, scrittore, ingegnere, cantautore e trombettista, per Serge Gainsbourg non è solamente un modello sul palco, ma anche nella vita. Quando va a vederlo che si esibisce allo storico Tabù, un nome che non lascia dubbi sul tipo di locale, rimane estasiato di fronte al suo eclettismo. È qui, tra l'altro, che si ritrovano tra jazz, numeri da cabaret e serate a tema gli esponenti dell'esistenzialismo francese che di giorno stanno a discutere sul mondo nei piccoli caffè della Rive Gauche. A Gainsbourg, Boris Vian piace, perché pur essendo amico di Sartre e della De Beauvoir, riesce a prendersi beffa, e non alle loro spalle, dei loro atteggiamenti. Quando ho letto La schiuma dei giorni, ne sono rimasto folgorato, perché sentivo che i miei pensieri erano stati presi dalla mia testa e Vian li aveva messi sulla carta. La prefazione, per esempio, che dice: sono solo due le cose che contano, l'amore in tutte le sue forme e la musica di New Orleans. Tutto il resto è da buttar via, perché è brutto. Come Vian, Serge vuole abbattere i tabù sociali. Si sente provocatorio e scandaloso, e se ne accorge lo stesso Vian quando una sera gli chiede di aprire un suo concerto. Gli occhi sono tutti puntati su di lui, su quel ragazzo dal naso pronunciato e l'aspetto da dandy che non disdegna l'alcol e fa della contaminazione la sua chiave di lettura delle cose. Musicalmente, negli anni 60, incomincia col jazz, passa al rock e al reggae negli anni 70 e approda all'elettronica negli anni 80. È uno sperimentatore che cerca di non perdersi niente. Amo il jazz, è dentro di me e non ne uscirà mai. Però lascio sempre una porta aperta a tutte le esperienze. È l'unico modo per assaporare al meglio la vita. Fa così anche in amore. Nel 1951 sposa Liz Levitsky. Il matrimonio dura 6 anni, poi lui si stufa e divorziano. Ci riprova nel 64 e da François Pancrassy ha 2 figli, un maschio e una femmina. La Pancrassy è una stupenda bruna, figlia di un grande industriale, eccessiva e teatrale. Ma gli rovina la vita a forza di scenate di gelosia, tanto che una volta prende l'aereo per Tokyo solo per schiaffeggiare una rivale. Dopo 4 anni, esasperato, Serge chiude la relazione. Nel frattempo, per consolarsi della sua insuperabile malinconia, beve sempre di più. Eppure è un grande tombeur de femme. Piace moltissimo alle donne. Vederlo sul palco con una gitana in bocca fa innamorare le ragazzine e le insospettabili signore borghesi di cui lui si fa beffa nei suoi testi. L'amore per lui resta il fulcro attorno a cui ruotano musica ed esistenze che non si possono separare. Io, in una cena a casa di amici, sono uguale a come mi si vede sul palco, e viceversa, sul palco non posso nascondere quello che sono. Sarebbe da ipocriti e da vigliacchi. Per me un artista è quello che l'arte la mette in qualsiasi cosa faccia. Je me donne à qui me plaît. Gli uomini francesi, e non solo, hanno in mente solo una donna, Brigitte Bardot. In questo periodo, Bibi, la diva delle dive, è sposata con il ricchissimo playboy tedesco Günther Sachs. Ma appena vede in un angolo solo e con un giornale in mano Serge Gainsbourg, prova un'istintiva voglia di andargli a parlare. Ovviamente lui sa chi è lei, ma non la riempie di attenzioni, non si emoziona per avere lì a portata di mano la preda più ambita, la tratta come una ragazza qualsiasi e fa centro. Bibi cade ai suoi piedi. Sono solo 3 mesi, ma di fuoco. Si può riassumere tutto in una frase. Un incontro senza un'ombra, senza una nuvola. 90 giorni di amore folle. Era bello, puro. Tutto questo si chiama semplicemente felicità. Serge è un uomo volubile e tormentato, ma che alle sue donne riesce a trasmettere un incredibile senso di stabilità. Quando ama, si dona completamente, senza alcuna riserva, e ogni volta crede che durerà per sempre. Una notte, mentre sono abbracciati stretti sotto le coperte, Brigitte guarda Serge negli occhi e gli chiede di scrivere per lei la più bella canzone d'amore. È tardissimo, ma lui si alza dal letto, va al pianoforte e incomincia a improvvisare un motivo per lei. La musica è romantica, l'atmosfera malinconica come può essere solo in una mansarda di Parigi con le gocce di pioggia che battono sui vetri, ma il testo è esplicitamente erotico. La Bardot per nulla imbarazzata ascolta, mentre parola dopo parola prendono vita delle strofe che lasciano ben poco all'immaginazione. Era una canzone incredibile, una canzone figlia del 68, che soltanto a Serge poteva venire in mente. Quei sussurri, quei silenzi, quei sospiri. Siamo andati in studio a inciderla, ma nel frattempo mio marito Gunther aveva scoperto tutto e mi ha minacciata. Se fosse uscita quella canzone, sarebbe scoppiato uno scandalo. La canzone si intitola Je t'aime non plus, un gioco di parole che sta più o meno per Ti amo neanch'io. Dopo l'incisione rimane nel cassetto come se per uscire non fosse ancora il tempo giusto. Il destino, quando vuole che due persone si incontrino, può fare 1000 giri, ma poi arriva dove deve arrivare. Ogni scintilla ha il suo istante preciso per esplodere, né un minuto prima né un minuto dopo. E questo è il momento di Jane Birkin e Serge Gainsbourg. A Destini Incrociati siamo nel 1968 e a Parigi, sul set di Slogan, si incontrano il cantante francese Serge Gainsbourg e l'attrice inglese Jane Birkin. Lui è reduce da una brevissima storia d'amore con Brigitte Bardot. Lei ha una figlia piccola dal marito John Barry, un grande compositore di Hollywood che ha appena abbandonato. Al primo impatto Jane e Serge non si piacciono. Lei lo trova brutto, lui la prende in giro per il suo francese improbabile, ma una sera vanno a ballare e si innamorano. È stato il periodo più straordinario della mia vita. Uno stato di grazia, meno trucco, meno adolescenza. La mia storia con Serge era perfetta. Cantavamo, viaggiavamo, ci amavamo. Con noi cresceva Kate e io ero di nuovo incinta. Pochi mesi dopo avremmo avuto Charlotte. Gainsbourg tira fuori dal cassetto Je t'aime non plus. Jane sa che non è stata scritta per lei, ma accetta di inciderla perché è sicura di sé, dell'amore totalizzante di Serge e del fatto che con la sua voce la farà diventare sua. È davvero così, perché l'affiatamento tra i due è palpabile. Quei sussurri e sospiri sembrano cuciti addosso a loro. Non appena esce la canzone, lo scandalo è enorme e il successo di conseguenza è immenso. In Francia, nonostante lo sbandieramento del crollo dei tabù sessuali, il brano viene vietato. Ma è già troppo tardi, perché il destino di Je t'aime moi non plus è quello di entrare nel mito. C'era un'innocenza pazzesca, era tutto facile. Da poco ho recuperato dei Super 8 che avevo girato a Venezia e a Londra e che qualcuno mi aveva rubato. In quei video c'era una Jane a cui guardo con tenerezza e un Serge di cui emergono candore, sensualità e voglia di vita. Certo, lui dava l'idea di essere strano e in qualche modo lo era. Serge non ha la patente, ma un giorno torna a casa con una Rolls Royce che ha comprato soltanto per andarci a fumare dentro, a volte senza nemmeno tirare giù i finestrini, per il sottile piacere di respirare a pieni polmoni quel gusto di gitan. Quando il Papa fa commenti amari sulla versione cinematografica di Je t'aime, lui, più divertito che turbato, dichiara in televisione che in fondo è stato il miglior PR per il film. Una volta deve stare in ospedale e chiama François per rilasciare un'intervista perché non sopporta l'idea di essere ricoverato senza che la Francia lo sappia. Geniale, ironico, stravagante, ma anche sempre più dedito all'alcol. Il lato oscuro di Serge è pronunciato tanto quanto il suo lato solare. Forse anche per questo fascino da maledetto che Jane l'ha scelto tra l'infinità di uomini che avrebbe potuto avere. Per un decennio, Gainsbourg e la Birkin sono la coppia simbolo del post-68 e mescolano la vita privata che li vede sempre più innamorati con concerti, tournée, nuovi album e nuovi film. Ma poi l'incantesimo si spezza. Serge inizia a bere moltissimo, un bicchiere dopo l'altro, fino ad essere completamente ubriaco. Jane, a volte, quando è notte fonda, deve lasciare a casa Kate e Charlotte, che stanno dormendo senza troppi pensieri, prendere la macchina e andarlo a recuperare in qualche bar sempre più losco. La mattina lui si trova piccole ferite di cui non si ricorda e chiede a lei come ha fatto a procurarsele. Lei lo sa benissimo. È il suo modo di punirlo per averla esasperata. Lo scandalo a tutti i costi, che prima era un passatempo divertente per disturbare i perbenisti, adesso per Gainsbourg è un'ossessione. È come se la continua provocazione fosse la sua dichiarazione di guerra al mondo intero. Come quando canta Je t'aime non plus con sua figlia Charlotte per darle un sapore incestuoso. O quando elabora una marsigliese in stile reggae per la quale i Parà, reduci dell'Algeria, minacciano di ucciderlo. O ancora quando va in televisione e brucia un biglietto da 500 franchi. Ho sempre amato Serge e continuerò ad amarlo in eterno. Ma quel Serge cominciava a farmi paura. Ero stufa di tutta quell'esibizione sfrenata. Ho incontrato Jacques Doyon, un giovane regista, e mi ha chiesto di interpretare per lui la parte di una giovane depressa. Serge non ha capito e ha scritto una canzone che faceva «Je la déprime». Continuava a ripetermi che io avevo tutto, che avevo lui, che avevo le bambine, che avrei dovuto essere felice perché non mi mancava niente. Ma io non ne potevo più. Grazie all'amore di Doyon ho trovato la forza di lasciare Serge. Ma Jane non ce la fa più. Dopo averlo lasciato, arrivano per lei anni di intense battaglie civili. Lotta all'AIDS, al razzismo. Si nasconde persino in un tank per entrare nella Sarajevo sotto assedio. Suo padre David, che questo spirito gliel'ha insegnato, è ormai anziano, ma la guarda con orgoglio. Sua madre, invece, che era riuscita a scappare dai bombardamenti di Londra, le dà un consiglio di cui fa tesoro. Compra cose inutili, camicie di seta, rossetti, profumi, perché quando non hai niente, il superfluo ti tira su il morale. Intanto Gainsbourg, che non smette di farsi del male, compone ancora canzoni meravigliose. Naturalmente per lei, la sua musa indimenticabile. Entrambi hanno nuovi compagni. Jane vive con Doyon e la piccola Lou. Serge con Caroline von Paulus, modella eroinomane di gran lunga più giovane di lui, che tutti chiamano Bambù. Ma il filo che li lega non si può spezzare. La mia fortuna è che alla fine Serge mi amava come un'amica, anzi, come l'amico che non ho mai avuto. Ha scritto canzoni per me fino alla morte. Aveva trovato anche il modo per rientrare nel mio quotidiano. Bambù, la sua nuova compagna, lo accettava, e anche Jacques. Veniva da noi dopo cena e suonava il piano fino alle 3 del mattino. Io dicevo, dobbiamo ascoltarlo, è Serge, e riapparecchiavo la tavola. Era strano per gli altri, ma non per noi. Ormai distrutto, Serge muore il 2 marzo 1991 per colpa di un attacco cardiaco. A rimpiangerlo c'è tutta la Francia, che gli trova un posto al cimitero di Montparnasse, nel cuore di Parigi, dove riposano molti artisti e intellettuali che hanno scritto la storia. Catherine Deneuve, tra le lacrime di tutti quelli che l'hanno amato, legge il testo di una sua canzone, «Fuggire la felicità, per paura che sopravviva». Se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil bat radieux. Croire au ciel, croire au Dieu même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Destini incrociati, destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it.